grazie di averci invitato di nuovo, mi siedo di qua. È la terza volta appunto dal 2009 quindi che veniamo a Milano, alla Terra Trema, che ci invitate per parlare dell'Aquila e parlare della nostra esperienza. Le brigate sono state anche all'Aquila e a Tempera, in un paesino vicino a Pesco Maggiore, e anche lì sono state fondamentali perché, insomma, senza fare pubblicità alle brigate, però effettivamente ci sono state anche in Abruzzo, nel terremoto dell'Aquila, delle esperienze di autogestione dei campi d'accoglienza. E oltre quelli della protezione civile c'erano tantissimi campi autonomi, uno delle brigate, uno gestito dalla CGIL e tanti proprio autogestiti, come quello di Pesco Maggiore. Infatti Pesco Maggiore è una piccolissima frazione, per chi non lo sapesse, del comune dell'Aquila, quindi siamo infognati in tutte le pratiche post ricostruzione del comune dell'Aquila, con tutto quello che comporta, visto che il comune dell'Aquila ha 62 frazioni, quindi sono tantissime, tutte danneggiate dal sisma. E Pesco Maggiore è proprio sotto il Gran Sasso, è un paesino che prima del terremoto aveva 44 abitanti, e molti anziani ovviamente che hanno dovuto lasciare il paese proprio perché non è stato dato modo a chi vivesse una realtà rurale e quindi agricola di poter restare nel proprio paese, sul proprio territorio, ad occuparsi degli animali, delle terre e di tutto quello che appunto sappiamo essere la vita di campagna, insomma, agricola. E da qui nasceva, in un certo senso, anche se c'era un comitato, che è il comitato per la rinascita di Pesco Maggiore, che era preesistente al sisma, che ci ha permesso poi concretamente di realizzare questo piccolo ecovillaggio in Valle di Paglia, perché ci ha messo a disposizione gratuitamente le terre, i terreni per costruire. Senza questo probabilmente non avremmo potuto farlo, perché ovviamente non avevamo soldi, non abbiamo avuto sovvenzioni, ci siamo autofinanziati e abbiamo ricevuto delle donazioni da tutta Italia, 150.000 euro da centri sociali, suore, gruppi sportivi, di tutto, proprio di tutto, famiglie, veramente in maniera trasversale. Probabilmente tutti attirati dal fatto che semplicemente, forse in maniera semplicemente dignitosa, delle persone, perché non credo che abbiamo fatto una cosa straordinaria, abbiamo fatto forse la cosa più normale, più umana, più semplice, cioè quella di decidere noi con chi andare a vivere, perché, come, dove e quando, e non lasciarlo decidere a Berlusconi sostanzialmente e né a Bertolaso. E quindi semplicemente dal sisma, intanto i paesani hanno deciso di scendere a Paganica, nel paese più vicino, prendere le tende, montarsele da soli, montarsi la cucina della sagra del paese, e si sono autogestiti per 40 giorni. E non mi sembra ci siano state, no, atti di cannibalismo o non so quali sommosse, cose del genere. Hanno fatto quello che hanno sempre fatto, cioè si sono autogestiti. Soprattutto in un territorio, quello d'alta montagna, diciamo, noi siamo a 1000 metri, che ha ancora degli statuti molto forti legati agli usi civici e quindi ai beni comuni. Non si vive in una zona come quella senza i beni comuni, quelle risorse naturali a disposizione degli abitanti del posto, quindi le sorgenti, quindi i boschi, i pascoli e tutto il resto. Solo una visione appunto molto moderna, in realtà molto contemporanea, della divisione proprietaria delle terre, di una divisione proprietaria delle risorse, ha permesso e può permettere quello che sta accadendo adesso. In particolare su Pesco Maggiore incide non solo la ricostruzione, non solo la crisi economica, non solo la miopia delle scelte di sviluppo legate ai territori appenninici in generale. Noi cerchiamo di fare anche una rete con le realtà rurali come la nostra su tutto l'Appennino, perché sostanzialmente fenomeni di spopolamento sono comuni a tutta l'Italia, in particolare appunto alle zone montane. ma anche a conflitti ambientali sui territori, proprio perché abbandonati, alcuni hanno pensato bene di impossessarsi tramite proprietà privata di terreni per fare che cosa? Per, come diceva Marx, sussumerli al capitale, cioè semplicemente espropriare i beni dalla terra senza restituire nulla. E nel caso specifico, sotto a Pesco Maggiore c'è la più grande cava di inerti dell'Aquilano. E praticamente qual è la logica? Cioè, negli ultimi 30 anni, dall'abbandono delle campagne, hanno semplicemente pensato che sviluppare un territorio come quello potesse passare dall'industrializzazione della terra, cioè proprio della materia prima, il calcare, la base per il cemento sostanzialmente. Quindi probabilmente useranno la nostra montagna per costruire la TAV, probabilmente useranno la nostra montagna espropriandola a noi per costruire il ponte sullo stretto oppure per costruire la superstrada ad Abbiategrasso. Questa è la realtà. Contro la filiera del cemento noi vorremmo imporre e ritornare alla filiera del grano, come diceva Giuseppe. Anche sul nostro volantino, con un piccolo gioco di parole, abbiamo scritto: per fare una casa ci vuole il grano. Proprio perché costruire in paglia per noi significava anche dare un messaggio molto chiaro e molto preciso sui modi che ci sono per abitare, quindi da partire dalle tecniche di costruzione. Quindi tutta la filiera del grano comprende sicuramente e primariamente il cibo, e infatti abbiamo riattivato anche un forno abbandonato del paese con le nostre forze e con un piccolissimi spicci raccattati insomma in giro, e questo proprio per completare la filiera, e con gli scarti si possono costruire le case che ci permettono in tempo di crisi di abbattere i costi sostanzialmente. Nel nostro intervento di bioedilizia non volevamo, cioè non siamo architetti, quindi non ci interessava la sperimentazione in sé, noi avevamo una necessità: la casa. Non avevamo più casa, non avevamo più un lavoro, non avevamo più tante possibilità, e abbiamo deciso di farlo in questo modo, che ci sembrava semplicemente una cosa intelligente, cioè mettere in pratica tante esperienze positive, principi, come dire, ragionevoli, che esistono, e quindi portarli lì da noi in una situazione di emergenza. Quindi le case sono modulari, sono due moduli, sono apparentemente identiche, in realtà non lo sono, perché sono passate centinaia di persone ad aiutarci a costruire da tutto il mondo, dall'Italia ma anche da Taiwan, Los Angeles, Londra, eccetera. E questo per trasmettere, abbiamo cercato di aprire il più possibile un piccolo paesino come quello al mondo, non solo per scambiare conoscenze, perché comunque chiunque è venuto ha avuto anche un po' l'opportunità di imparare, senza ipocrisia, ma veniva a dare una mano, certo, ma anche ad imparare, no? E a capire, ad informarsi, eccetera. Ma anche per connettere una serie di ragionamenti che sono comuni effettivamente, veramente globalizzati, anche i nostri ragionamenti positivi, costruttivi e virtuosi. E come diceva Claudio, si tratta veramente di fare il passo, di mettersi insieme, insomma, perché lo sappiamo e lo vediamo poi in queste situazioni: senza questa collaborazione non si va avanti, insomma, a partire dalla questione economica. Io non sono un agricoltore, sinceramente, non mi posso definire tale, sto imparando dagli anziani, sto imparando da chi passa e che ci dà, sto imparando perché mi interessa, però non sono un agricoltore effettivamente. Ho scoperto questa cosa per necessità, e non credo che sia per questo che sia meno importante, insomma. Mi rendo conto dell'enorme lavoro che c'è. Però vedo sempre più persone interessate a questa questione, soprattutto ora che c'è la crisi. Crisi per me vuol dire anche giudizio, capacità di giudizio, giudicare cosa è necessario e cosa non lo è. Io vi ringrazio, se avete delle domande noi saremo qui come tutti gli altri e a presto. Sì, noi infatti Isabella, al di là della narrazione, un altro pezzettino è il fatto che, come succede tutti gli anni alla cucina del Leoncavallo, i prodotti che vengono utilizzati per le cene arrivano dagli agricoltori che sono presenti qui. Eva ha Mi sono dimenticato solo una cosa. Sì, quest'anno abbiamo portato, come l'anno scorso, lo zafferano, che è, come sapete, l'oro rosso del nostro territorio. Però stiamo cercando, prima parlavo un pochino con Giuseppe a tavola e poi soprattutto stimolata dal video, insomma, stiamo cercando anche noi di recuperare culture abbandonate, autoctone, ma soprattutto non è un vezzo né una moda, è che veramente in quelle condizioni climatiche, su quel territorio così povero, senza terra, noi non abbiamo la terra in realtà, abbiamo i sassi, cioè non, è molto difficile fare agricoltura in quelle zone, anche gli anziani ce lo dicono sempre, ma qui non esce niente, però non è vero, ci sono delle varietà che si adattano e si sono adattate per millenni a quelle temperature, a quelle altitudini, a quel terreno. E quindi stiamo semplicemente, anche lì, secondo me, con un ragionamento abbastanza lineare e logico, cercando di reintrodurle e per salvaguardarle, purtroppo, dovrebbe essere la normalità, non lo è. Quindi anche noi coltiviamo un tipo di grano che si chiama grano solina, che è un grano di montagna, molto basso, e infatti magari poi parliamo un po' del grano, che lui è molto più bravo di me, giustamente. E poi vabbè, coltiviamo farro, e un farro di una varietà locale di Montereale e altre vabbè, varietà di frutta. Per il momento siamo a livello dell'autoproduzione sostanzialmente, cioè dell'autosostentamento, e stiamo anche iniziando vari scambi di baratto con altre realtà abruzzesi che si stanno svegliando. L'Abruzzo è una regione agricola poi fondamentalmente, quindi ci sono ancora tantissimi produttori, piccolissimi produttori, e adesso insomma si stanno stimolando e svegliando, stiamo facendo tanti mercati, ci stiamo scambiando semi, ci stiamo scambiando conoscenze, e insomma l'Abruzzo esiste, venite a visitarlo, perché appunto se ne parla solo per cose assurde come il terremoto o lo scandalo sulla sanità o cose del genere. E invece è un territorio molto ricco, molto bello, molto selvaggio.